nasci Gesù dalla capanna, fu la dura e la sua mamma. Vanno e venno li pastori adorare il Redentore. C'era un bambino figuraro lenta via chi ci ricotta fresca. C'era un povero cacciatore, niente via che ci portare. Happy C'era un povero pescatore, niente via che ci portare. Porta un fanfiro e un capone per l'amore di lui. C'era l'ultima, la lavandera, niente via che ci portare.